La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al processo per la strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema del 12 agosto 1944. Ospite ai nostri microfoni lo storico Lutz Klinkhammer. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato al miracolo economico cinese, che si fonda su una filosofia che mette l'armonia sociale davanti alla libertà individuale. Ma ora la parola va a Dino Pesole. Il 22 giugno del 2005 il Tribunale Militare di La Spezia condannò all'ergastolo i 10 imputati della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, un paesino dell'Alta Versilia sulle colline di Lucca, strage che venne compiuta il 12 agosto del 1944. Strage che costò la vita a 560 civili, tra cui 110 bambini. La scorsa settimana, con una decisione che ha provocato quantomeno sconcerto, la procura di Stoccarda ha deciso di archiviare l'inchiesta al termine di un'indagine che si è protratta per 10 anni. Non vi sono prove che documentino la responsabilità individuale dei 17 nazisti accusati che sono ancora in vita, hanno sentenziato i giudici di Stoccarda. Pur nel rispetto dell'indipendenza della magistratura tedesca, la decisione della procura di Stoccarda su Sant'Anna di Stazzema è per gli italiani motivo di profondo sconcerto e rinnovata sofferenza, ha commentato il segretario generale della Farnesina Michele Valenzi, che ha ricevuto il viceministro degli esteri tedesco Michael Link. Un'altra strage senza colpevoli, dunque. Furono 4 le compagnie della 16ª divisione Reichsführer, comandate dal capitano Anton Galler, a compiere la strage. In tutto 250 SS. Gli uomini erano quasi tutti fuggiti sulle montagne. In paese erano rimasti solo donne, vecchi e bambini. L'eccidio ebbe inizio alle 7:30 del mattino. Poco prima di mezzogiorno era tutto finito. 560 le vittime, donne, anziani, bambini. Le case vennero date alle fiamme, i civili ammassati e trucidati. Non vennero risparmiati neanche i neonati e le donne incinte. All'eccidio presero parte anche fascisti italiani, come è emerso chiaramente dalle numerose testimonianze dei sopravvissuti. I soldati della 6ª e della 7ª compagnia cospargono i cadaveri di benzina e danno fuoco. I cadaveri verranno quasi tutti identificati più tardi dalle forze alleate. La sentenza del Tribunale Militare della Spezia del 2005 era stata salutata come un atto di giustizia che arrivava oltre 60 anni da quando quell'orrendo crimine venne commesso. Crimine che si inserisce all'interno delle stragi nazifasciste compiute nel nostro paese dopo l'8 settembre, stragi che vennero scoperte anche grazie al cosiddetto armadio della vergogna, armadio chiuso, sigillato per oltre 40 anni, con le ante rivolte verso la parete, abbandonato all'oblio in una stanza inaccessibile al pian terreno di Palazzo Cesi a Roma, sede della Procura Generale Militare. Bene, in quell'armadio erano custoditi i 695 fascicoli delle stragi compiute dai nazifascisti nel nostro paese, appunto dopo l'8 settembre del 43. Circa 15.000 vittime tra i civili, secondo le stime più attendibili, tra cui vecchi, donne e bambini. Alla metà degli anni 50, il procuratore generale militare Arrigo Mirabella concorda con il Ministero degli Esteri una linea ispirata alla cosiddetta ragione di Stato. La NATO ha bisogno del riarmo della Germania per contrastare, in anni di guerra fredda, la superpotenza sovietica. Su quelle stragi, compiute in tempo di guerra, deve calare il silenzio. Si arriva così al 14 gennaio 1960, quando il procuratore generale militare Enrico Santa Croce decide di procedere all'archiviazione degli atti. Passano oltre 30 anni, fino a quando il procuratore militare presso il Tribunale Militare di Roma, Antonino Intelisano, nell'ambito del processo contro l'ex capitano delle SS, Erich Piepcke, si imbatte nell'estate del 1994 nel famoso armadio con i 695 fascicoli occultati dai tre procuratori generali Borsari, Mirabella e Santa Croce. In totale nei fascicoli sono contenute ben 2.274 notizie di crimini. Abbiamo in linea lo storico Lutz Klinkhammer, che è autore di vari libri, tra cui ricordo L'occupazione tedesca in Italia, un altro libro sulle stragi naziste in Italia, pubblicato da Donzelli. Buonasera professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Allora, ci aiuti anche, anzi e soprattutto, a capire le motivazioni, se vogliamo, giuridiche che sono dietro questa sconcertante sentenza della Procura di Stoccarda. Si tratta di una sentenza di archiviazione della Procura dopo 10 anni di indagini. È un po' un caso molto indagato, ma anche anomalo che la sentenza di archiviazione arriva dopo tutti questi anni. La disamina giuridica è complicata per la normativa tedesca perché ci sono 2 articoli che puniscono l'omicidio, quindi l'ordinamento giuridico tedesco è completamente diverso da quello italiano. Tutto quello che non è articolo 211, omicidio aggravato doloso, è prescritto. Quindi la disamina giuridica della procura stava nel indagare sui fatti se erano dolosi e se si può provare questa dolosità per ciascun singolo imputato. E questo porta a delle divagazioni giuridiche sulla intenzionalità di ciascun singolo che aveva partecipato al massacro, solo che su questa intenzionalità abbiamo praticamente soltanto le testimonianze degli imputati stessi, certo, che sono imputati che volevano difendersi di fronte a un'accusa di omicidio plurimo aggravato e quindi non possiamo dare credito alle loro esternazioni. Sono solo queste le fonti, però al di là, come dire, anche dell'aspetto formale e giuridico, che pure è importante, rimane il fatto che in ogni caso non ci sia formalmente giustizia per una strage che è stata commessa nel nostro paese, certo in periodo di guerra, ma a danno di civili. La procura sostiene che si trattava di un massacro e una politica di annientamento nel caso di Sant'Anna, programmata in quel momento. La differenza nella valutazione è che per condannare ciascun singolo imputato avrebbero dovuto essere tutti consapevoli sin dall'inizio che si sarebbe trattato di un'operazione di annientamento. E questo per la procura non è da provare con la necessaria certezza. Si entra nella valutazione storica dei fatti, solo che in questo caso ci sono anche altre ricostruzioni possibili e plausibili. La più, secondo me, più affidabile ricostruzione è quella data da Carlo Gentile, che era tra l'altro anche perito del Tribunale della Spezia nelle indagini per Sant'Anna, che ha ricostruito nel suo libro appena uscito in Germania il massacro in maniera molto dettagliata. E anche Gentile sottolinea che non ci fu un'operazione programmata sin dall'inizio destinata all'annientamento di tutta la popolazione, nel senso che ci furono delle divergenze di comportamento per quanto riguarda singoli individui, per quanto riguarda singole unità militari. Ecco, ma dal punto di vista più storico, come si inquadra questa strage all'interno del complesso delle stragi che vennero compiute nel nostro paese dopo l'8 settembre del 43, che da noi sono state scoperte anche grazie al cosiddetto armadio della vergogna? La strage di Sant'Anna di Stazzema è stata una delle più gravi, con un massacro di civili, di donne e bambini. Il numero delle vittime è difficile stabilirlo con esattezza, ma le cifre variano tra 400 e 560 morti. Il battaglione Galla, molto probabilmente, era la principale unità responsabile per i fatti, che ammazzava in maniera molto crudele. Questa divisione ha lasciato una scia di sangue in Toscana e in altre parti dell'Italia, e questa unità militare aveva in mente di uccidere indiscriminatamente partigiani e civili, solo che per la procura non è possibile stabilire con la certezza assoluta che ciascun singolo individuo, ciascun singolo soldato era individualmente e soggettivamente partecipante a questo piano crudele. Sentenza che si potrebbe configurare quasi come una specie di amnistia su quei reati. Purtroppo le indagini delle procure in Germania nel secondo dopoguerra per fatti di questo tipo, che erano circa 100.000, hanno portato soltanto al dipartimento in 6.500 casi circa e con una condanna all'ergastolo di circa 160 imputati. Quindi praticamente attraverso la distinzione giuridica creata negli anni 60 tra reati di omicidio non aggravati dolosi prescritti dopo 15 anni, siamo arrivati ad una amnistia per i cosiddetti semplici esecutori materiali, perché unicamente complici. In questa maniera tutti quelli che non erano ufficiali comandanti sono praticamente stati amnistiati, perché è difficile stabilire con la necessaria certezza, non avendo più i testimoni dell'accusa, perché i civili vittime sono morti, molto spesso non ci sono testimoni che possono provare la colpevolezza di un singolo soldato, e tra di loro c'è un muro di omertà tra gli ex soldati. Praticamente si arriva ad un'amnistia indiretta per autori di stragi e di crimini nazisti. Grazie professore, grazie, abbiamo esaurito il nostro tempo, la ringraziamo e buona serata. Grazie, buonasera. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte di La storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alla Cina. Tutto questo progresso è capitalismo o comunismo? È mercato libero all'occidentale o sistema cinese? Scopriremo come dietro al miracolo economico cinese si nasconde una grande paura: lo spettro della disgregazione. In Occidente cresciamo con un codice di comportamento basato sull'individualismo, mentre in Cina, in primo principio, è conoscere il proprio posto. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 14 ottobre, alle 13.20 su History Channel. Oltre 2000 anni fa, la Cina non esisteva. Questa terra era contesa da centinaia di signori della guerra. Nel 221 a.C. qualcuno riuscì finalmente a unificare in un unico grande impero i diversi regni perennemente in lotta. Si trattava di Qin Shi Huang. È dal suo nome che prende origine la parola Cina. Oggi è venerato come l'uomo che dette il via a un immenso impero durato ininterrottamente 2000 anni. Qin è stato il primo a trovare la soluzione per tenere insieme milioni di chilometri quadrati, cioè l'autocrazia. Il potere assoluto nelle sue mani. Durante i secoli, l'impero si è esteso fino a comprendere un vasto territorio e molti popoli diversi. Gli Han sono la maggioranza, ma ci sono ben 55 minoranze etniche, soprattutto vicine ai confini, fra cui tibetani, uiguri e hui. L'area è diventata talmente vasta da essere quasi un continente. Un quinto dell'umanità vive qui. È come se tutte le popolazioni dell'Europa, del Nord America e dell'ex Unione Sovietica fossero unite in un solo governo. E probabilmente la popolazione cinese è ancora maggiore. Pensiamo a cosa è successo in Jugoslavia e Unione Sovietica. Si sono sgretolate quando alcune minoranze hanno deciso che non volevano più vivere insieme. Non sorprende quindi che la Cina sia tormentata dallo spettro della disgregazione. Oggi a tenere unita la Cina non è più l'imperatore, ma il Partito Comunista. Questa vasta assemblea, composta da migliaia di delegati, serve a creare l'impressione che il paese sia governato secondo principi collettivi, cioè con un governo del popolo. In realtà, la Cina è ancora governata come ai tempi del primo imperatore. Tutto il potere è nelle mani di 9 uomini. Il Politburo non viene eletto e ha lo stesso potere dell'imperatore Qin. L'assolutismo viene confuso con la stabilità e questo è il mondo in cui la Cina è stata tenuta insieme nel corso dei secoli. La stessa soluzione imposta dall'imperatore Qin più di 2000 anni fa. Questa straordinaria concentrazione di potere nelle mani di un unico uomo permise a Qin di realizzare imprese sorprendenti. Fu lui a iniziare la costruzione della famosa Grande Muraglia, che ancora oggi si snoda come un enorme serpente di pietra per migliaia di chilometri nel nord della Cina. La muraglia fu costruita per proteggere il suo impero dalle invasioni dei popoli nomadi dell'Asia centrale e il suo potere. Tutto quello che Qin faceva era pensato per tenere unito il suo vastissimo impero. È stato lui a introdurre un unico modello di scrittura per poter diffondere i suoi editti in tutto il territorio e a imporre una valuta unica in tutto il paese. Ma quando si guarda indietro, si capisce che tutte queste innovazioni avevano un unico scopo, cioè prevenire la disgregazione di questo enorme impero. E qualche volta, come ai giorni nostri, questo significava eliminare spietatamente gli oppositori, chiunque venisse visto come un pericolo per l'integrità dell'impero. Qin, che costruì tanto, bruciò i libri e ingaggiò una battaglia contro studenti e proprietari terrieri. Non tollerava la minima minaccia al suo potere assoluto. Quando penso agli uomini che governano la Cina moderna, mi rendo conto di quanto siano in debito verso quest'uomo. Probabilmente ci sarà un cambio di governo in Cina, ma non mi aspetto nessuna elezione o campagna elettorale. Infatti, i governanti attuali non vengono sottoposti a scrutinio, esattamente come avveniva con l'imperatore. Per questo governo l'ordine è più importante della libertà. La segretezza della trasparenza, l'unità della democrazia. Ed è sempre stato così in Cina. Ma com'è possibile che a questo mondo un sistema del genere sia sopravvissuto per 2000 anni? Ancora una volta, parte della risposta è da cercare nella sua storia e in una filosofia che mette l'armonia sociale davanti alla libertà individuale. Confuzio, o Confucio, nella versione familiare a noi occidentali, è stato lui a fornire il sistema di valori su cui la Cina ha fondato la sua civiltà. Un sistema che è stato spesso utilizzato per giustificare l'assolutismo. Il suo ideale è una società basata sulla grande armonia, o Da Tong. In Occidente cresciamo con un codice di comportamento basato sull'individualismo, mentre in Cina il primo principio è conoscere il proprio posto. La cosa più importante del confucianesimo è che si basa su un'ideologia antirivoluzionaria, un'ideologia nata per stabilizzare l'ordine sociale senza possibilità di capovolgimenti. Ufficialmente, i valori condivisi nella Cina moderna sono quelli del comunismo, ma questo è un periodo di enormi cambiamenti sociali ed economici. Quindi, quale miglior messaggio da trasmettere a un paese la cui stabilità potrebbe incrinarsi, se non il valore dell'armonia sociale? Infatti, il presidente Hu Jintao parla così spesso di armonia che gli attivisti per i diritti umani ormai dicono di essere armonizzati al posto di essere censurati. L'indottrinamento all'obbedienza civile è solo l'inizio ed è parte di un sistema per tenere insieme la Cina. Per mantenere il potere ed evitare il caos, è necessario che questi valori vengano condivisi o imposti in tutto il paese. E come sempre, il metodo scelto oggi è lo stesso che veniva usato durante l'epoca imperiale. Una burocrazia controllata dal governo centrale. C'è un grande problema che mina questo sistema centralizzato ed autoritario. Una questione che, secondo alcuni studiosi occidentali, porterà la Cina alla riforma o al collasso. È qualcosa che ho trovato nascosta in tutto il paese e che è tanto grande oggi quanto lo era in epoca imperiale. Sto parlando della corruzione, che è a livelli tali da poter causare da sola tumulti e rivolte. La corruzione è un cancro che sta attaccando i valori fondamentali che tengono unita la Cina. Milioni di contadini hanno perso le loro terre a causa di imprenditori edili privi di scrupoli. Migliaia di persone sono state avvelenate da cibi contaminati da varie sostanze. Scandali che i funzionari corrotti cercano di coprire. Ancora oggi, però, sono solo i pesci piccoli ad essere scoperti. Quelli grandi continuano a nuotare in libertà. Avete appena ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo La Cina è vicina, l'impero. Regia Adrian Pennick. Casa di produzione Chimerica Media, titolare di diritti BBC. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, 14 ottobre, alle 13.20 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.